Allah, salla passaye, l'afflitta dolorosa de Maria, oi de Maria, l'afflitta dolorosa de Maria. Vedea lu figlie su e strascinate, miezzana chiorma de cavalleria, cavalleria, miezzana chiorma de cavalleria. Corrite tutte qua, le verginelle, scita bede Gesù, ca ie malate, ca ie malate, scita bede Gesù, ca ie malate. Sopra la croce lu gli attese fatte, lu cuscinelle de spine granate, lu cuscinelle de spine granate. Alla sinistra c'è l'amata lune, co ghielu sangontana, iarra fine, na iarra fine, co ghielu sangontana, iarra fine. Salla pigliatana, botta de lancia, alla parte sinistra de lu core, oi de lu core, alla parte sinistra de lu core. Sadda levaie lu, stendarde russe, la trumme nun selente, de sonaie, oi de sonaie, la trumme nun selente, de sonaie.